Ferve il dibattito, fra noi in questo studio, in questo momento, durante questa serata di questa trasmissione. Nella prima e nella seconda puntata del nuovo corso abbiamo invitato i nostri ascoltatori a partecipare ad una nuova rubrica intitolata, argutamente o meno, Caccia Vostra, e con la partecipazione di una cassetta, semplicemente registrandosi a casa propria una cassetta e inviandola gentilmente alla sede di Radio Popolare. Noi ne avremmo fatto incetta di questa cassetta e l'avremmo trasmessa nell'apposita rubrica costruita come una nicchia ecologica particolare per voi all'interno di questa trasmissione. Ora ferve il dibattito. Il dibattito ferve essenzialmente su questi termini. Il fatto assolutamente inequivocabile che nessuna cassetta sia mai giunta in questa redazione è un segno positivo o negativo? Oliva. In un certo senso, dicono alcuni, è un segno positivo perché presuppone una quantità di ascoltatori che stanno studiando, si stanno preparando, scelgono gli argomenti, comprano le cassette, migliorano la propria pronuncia e si fanno prestare il registratore del cognato per avere l'effetto stereofonico, e quindi, prese da queste molteplici attività, non hanno avuto ancora tempo di mandarci niente. Dicasi la tesi ottimista. Sì, la tesi pessimista, che poi, siccome tutto è relativo, non è pessimista più di tanto, è quella che agli ascoltatori basti e avanzi quello che diciamo noi, anzi che non ne possano più, e che l'idea di essere in qualche modo assimilati gli produca un senso di fastidio notevole.